vista da lontano, fumavi di nascosto, avevi le gambe lì, ma la testa in un altro posto. Le luci dentro il bar, e io che non ti conosco. Il primo giro lo offri tu, al secondo ci vedo doppio. Ti rincorro finché posso, finché non ti crollo addosso. Come un muro che cade giù, beviamo ancora, ancora glu glu. Glu glu. Glu glu. Glu glu. Andiamo a casa tua, oppure a casa mia. Va bene qualunque casa, va bene qualunque via, va bene qualunque cosa, mentre la notte diventa rosa. Ah, ma non mi sveglio domani, finché non mi richiami. Ti ho lasciato il mio numero sopra le mani, e poi ti ho persa come un mazzo di chiavi. Non faccio un cazzo domani, se tu non mi richiami. Ho perso la testa, forse l'ho solo rotta. Forse tu sei diversa, forse stanotte ho perso la rotta. Ma stasera sei bella, e per me pure troppo. Forse ci sono solamente rimasto sotto. Giuro che non bevo più. Glu glu, glu glu. Giuro che non bevo più. Ma non mi sveglio domani, finché non mi richiami. Sopra le mani, e poi ti ho persa come un mazzo di chiavi. Non faccio un cazzo domani, se tu non mi richiami. Ti ho lasciato il mio numero sopra le mani, e non so nemmeno come ti chiami. Giuro che non bevo più. Glu glu, glu glu. Giuro che non bevo più. Giuro che non bevo più. Glu glu. Glu glu. Giuro che non bevo più. Ma non mi sveglio domani.